Saint-Loup arrivò agitando in ogni senso, facendo svolazzare davanti a sé il monocolo. Non gli avevo fatto dire il mio nome, ero impaziente di godermi la sua sorpresa e la sua gioia. «Ah, che peccato!» esclamò scorgendomi all'improvviso e arrossendo fino alle orecchie. «Ho appena preso la mia settimana e per 8 giorni non potrò più uscire!» E, angustiato dall'idea che avrei passato da solo quella prima notte, giacché conosceva meglio di chiunque altro le mie angosce serali per averle tante volte osservate e lenite a Balbec, interrompeva le sue espressioni di rammarico per volgersi verso di me, accennare dei sorrisi, indirizzarmi sguardi teneri e ineguali, alcuni direttamente dall'occhio, altri attraverso il monocolo, tutti incaricati dall'alludere all'emozione che provava rivedendomi, nonché all'altra cosa importante che io non sempre capivo, ma che adesso mi stava a cuore, la nostra amicizia. Mio Dio, e dove dormirete? L'albergo dove siamo a pensione non ve lo consiglio davvero, è vicino all'esposizione, stanno per cominciare delle feste, lì ci trovereste uno sterminio di gente. No, meglio l'Hotel de Flandre, è una palazzina del sette con dei vecchi arazzi, fa abbastanza antica dimora storica. Saint-Loup usava tutto spiano il verbo fare, nel senso di avere l'aria o avere l'aspetto, perché la lingua parlata, con quella scritta, sente di tanto in tanto il bisogno di queste alterazioni del significato delle parole, di questi raffinamenti dell'espressione. E come i giornalisti ignorano, spesso, da quale scuola letteraria provengano le eleganze cui fanno ricorso, così il vocabolario, la pronuncia stessa di Saint-Loup, risultavano dall'imitazione di tre diversi esteti, nessuno dei quali gli era personalmente noto, ma di cui gli erano stati indirettamente inculcati i modi di dire. D'altronde, riprese, è un albergo abbastanza adatto alla vostra iperestesia uditiva. Non avrete vicini. Ammetto che è un ben misero vantaggio, e visto che, dopo tutto, qualche altro cliente potrebbe capitarci domani, non varrebbe la pena di sceglierlo per motivazioni tanto effimere. No, è per il suo aspetto che ve lo raccomando. Le camere sono piuttosto simpatiche, i mobili tutti antichi e confortevoli, insomma, ha qualcosa di rassicurante. Ma per me, meno artista di Saint-Loup, quello che si può trarre da un bell'edificio era un piacere superficiale, quasi inesistente, incapace di placare la mia angoscia insorgente, non meno penosa di quella che mi assaliva a Combré, quando mia madre non veniva a darmi la buonanotte, o di quella provata il giorno dell'arrivo a Balbec, nella camera troppo alta e odorosa di vetiveria. Saint-Loup se ne accorse dal mio sguardo fisso. «Ma voi ve ne infischiate, povero piccino di quel bel palazzo!» Siete pallido come un morto. E io, razza di bruto, sto qui a parlarvi di arazzi che non avrete nemmeno la forza di guardare. Conosco la camera che vi darebbero. Personalmente la trovo molto allegra, ma mi rendo conto che per voi, con la vostra sensibilità, non è la stessa cosa. Non crediate che non vi capisca. Non provo le stesse sensazioni, ma riesco a mettermi nei vostri panni. Un sottufficiale che, in cortile, stava provando un cavallo e, occupatissimo a farlo saltare, non rispondeva al saluto dei soldati, ma sparava bordate d'insulti contro quelli che gli intralciavano il percorso, sorrise proprio in quel momento a Saint-Loup e, vedendolo in compagnia di un amico, salutò. Ma il cavallo si rizzò in tutta la sua altezza schiumando. Saint-Loup si slanciò, afferrandolo per le briglie, riuscì a calmarlo e tornò da me. «Sì», riprese. Vi assicuro che capisco, che i vostri problemi mi addolorano. Mi sento infelice, aggiunse posandomi affettuosamente una mano sulla spalla, al pensiero che se avessi potuto rimanervi vicino sarei forse riuscito, chiacchierando insieme fino all'alba, ad attenuare un poco la vostra tristezza. Vi presterei senz'altro dei libri, ma come potreste leggerli se state così? E di farmi sostituire qui non c'è nemmeno da pensarci. L'ho già fatto 2 volte di fila perché era venuta la mia ragazza. E aggrottava le sopracciglia per il dispiacere e anche per la concentrazione con cui cercava, come un medico, un rimedio contro il mio malessere. «Svelto, va a far accendere il fuoco nella mia stanza», disse a un soldato che passava di lì. «Coraggio, sbrigati, che cosa aspetti?» Poi, di nuovo, si rivolgeva a me e il suo monocolo e il suo sguardo miope alludevano alla nostra grande amicizia. «No, davvero, voi qui, in questa caserma, dove vi ho pensato tanto, io non posso credere ai miei occhi, mi sembra di sognare. Ma tutto sommato la salute è un po' migliorata, vero? Mi racconterete tutto fra un istante. Saliremo su da me, meglio non restare troppo in cortile, tira un vento del diavolo. Io non lo sento neanche più, ma voi che non ci siete abituato ho paura che abbiate freddo. E col lavoro avete cominciato? No! Che strano tipo siete! Se avessi le vostre doti, credo che scriverei dalla mattina alla sera. Vi diverte di più non far niente, eh? Che peccato! Solo i mediocri come me sono sempre pronti a lavorare, mentre quelli che potrebbero non vogliono. E non vi ho nemmeno chiesto notizie della vostra signora nonna. Il suo Proudhon non mi abbandona mai. Un ufficiale alto, bello, maestoso sbucò da una scala a passi lenti e solenni. Selyup lo salutò, immobilizzando la perpetua instabilità del suo corpo per la frazione di tempo in cui tenne la mano all'altezza del chepi. Ma ce l'aveva scaraventata con tanta forza, raddrizzandosi con un movimento così secco e, una volta eseguito il saluto, la fece ricadere con uno scatto così brusco, sconvolgendo tutte le posizioni della spalla, della gamba e del monocolo, che, più che di immobilità, fu un momento di vibrante tensione nella quale i movimenti eccessivi che si erano prodotti e quelli che stavano per cominciare si neutralizzavano a vicenda. Nel frattempo, l'ufficiale, senza avvicinarsi, calmo, benevolo, dignitoso, imperiale, tutto l'opposto, insomma, di Saint-Loup, aveva portato a sua volta, ma senza fretta, la mano al chepi. «Devo dire una parola al capitano», mi sussurrò Saint-Loup. «Fatemi una cortesia, andate ad aspettarmi nella mia stanza, è la seconda a destra al terzo piano, vi raggiungo subito». E partendo a passo di carica, preceduto dal monocolo che svolazzava in tutte le direzioni, puntò direttamente sul dignitoso e flemmatico capitano, al quale in quel momento stavano portando il cavallo e che, accingendosi a montare in sella, impartiva qualche ordine con studiata nobiltà di gesti, come se stesse posando per un quadro storico o fosse in procinto di affrontare una battaglia del primo impero, mentre tornava semplicemente a casa sua, nell'appartamento che aveva preso in affitto per il periodo del suo soggiorno a Doncières e che si trovava in una piazza chiamata, per una sorta di premeditata ironia verso quel napoleonide, Place de la République. Ma via e lungo la scala, rischiando ad ogni passo di scivolare sui gradini chiodati, intravedendo camerate dalle pareti nude con le doppie file delle brande e dei bottini, mi indicarono la stanza di Saint-Loup. Indugiai un istante davanti alla porta chiusa, perché sentivo dei movimenti. Un oggetto veniva spostato, un altro cadeva. Avevo l'impressione che la camera non fosse vuota, che dentro ci fosse qualcuno. Ma era soltanto il fuoco acceso che ardeva. Non riusciva a stare tranquillo, spostava i ciocchi e assai maldestramente. Entrai, ne fece rotolare uno, fumigare un altro, e anche quando non si muoveva, continuava, come certe persone volgari, a emettere dei rumori che interpretavo come rumori di un fuoco, perché vedevo guizzare la fiamma. Mentre, se fossi stato al di là della parete, avrei pensato che a produrli fosse qualcuno che camminava e si soffiava il naso. Alla fine mi misi a sedere. Parati liberti e vecchie stoffe tedesche del XVIII secolo preservavano la stanza dall'odore che impregnava il resto dell'edificio, un odore grossolano, scipito e corruttibile come quello del pane scuro. Là, in quella camera incantevole, avrei pranzato e dormito con gioia, con calma. Sembrava quasi che Saint-Loup fosse presente, grazie ai libri di studio posati sul tavolo accanto ad alcune fotografie, fra le quali riconobbi la mia è quella di Madame de Guermantes. E, grazie al fuoco che aveva finito con l'abituarsi alla cappa, e simile ad un animale sdraiato in un'attesa ardente, silenziosa e fedele, si limitava di tanto in tanto a lasciar cadere una brace che si sminuzzava o a lambire con una fiamma una parete del camino. Sentivo il ticchettio dell'orologio di Saint-Loup, che non doveva distare molto da me, ma poiché non vedevo l'orologio, quel ticchettio cambiava continuamente posto. Mi sembrava che venisse da dietro, da davanti, da destra, da sinistra e a tratti persino che si smorzasse come se fosse molto lontano. Di colpo vidi l'orologio sul tavolo e sentì allora il ticchettio in un punto fisso dal quale non si spostò più. Credevo di sentirlo in quel punto. In realtà non lo sentivo, ma lo vedevo. I suoni non stanno in nessun luogo. O almeno siamo noi a collegarli a qualche movimento, del quale essi si incaricano di preavvertirci, rendendocelo necessario e naturale. A volte, peraltro, succede che un malato le cui orecchie siano state ermeticamente otturate non senta più il rumore d'un fuoco simile a quello che in quel momento parlottava nel camino di Saint-Loup, tutto intento a fabbricare tizzoni e ceneri e a scrollarli poi dentro la propria sporta, che non senta più nemmeno il passaggio del tramvai, la cui musica prendeva il volo, a intervalli irregolari, dalla piazza principale di Doncières. Allora, se il malato legge, le pagine gireranno silenziosamente, come se a sfogliarle fosse un dio. Il greve rumore di una vasca da bagno che si va riempendo s'attenua, si alleggerisce e s'allontana come un bisbiglio celeste. L'indietreggiare del rumore, il suo affievolirsi, lo spoglia da qualsiasi aggressività nei nostri confronti. Sconvolti sino a un attimo fa da colpi di martello che sembravano far tremare il soffitto sopra la nostra testa, ci delizia ora coglierne la carezzevole leggerezza, lontana come un mormorio di foglie che lungo la strada scherzino con lo zefiro. Facciamo dei solitari con carte di cui non percepiamo il rumore, tanto che ci sembra di non averle mischiate, come se, muovendosi da sole e prevenendo il nostro desiderio di giocare, si fossero messe loro a giocare con noi. E a questo proposito, anzi, ci si può chiedere se in amore, e all'amore aggiungiamo pure l'amore della vita, l'amore della gloria, visto che, a quanto pare, ci sono persone non ignare da questi due sentimenti, non dovremmo agire come coloro che, per difendersi dal rumore, invece di implorare che cessi, si tappano le orecchie, e imitandoli, riportare dentro di noi la nostra attenzione, il nostro apparato difensivo, assegnare loro, come oggetto da ridurre, non già l'estraneo che amiamo, ma la nostra capacità di soffrire per lui. Per tornare al suono, se aumentiamo lo spessore delle palline che bloccano il condotto auditivo, esse costringeranno al pianissimo la fanciulla che, sopra la nostra testa, stava suonando un'aria turbolenta. Se ne spalmiamo una di qualche sostanza grassa, subito il suo dispotismo si estenderà a tutta la casa e le sue leggi entreranno in vigore anche all'esterno. Il pianissimo non basta più. La pallina fa immediatamente abbassare il coperchio della tastiera e la lezione di piano si interrompe bruscamente. Il signore che ci camminava sulla testa sospende di botto la sua passeggiata. La circolazione delle carrozze e dei tramvai si arresta come nell'attesa di un capo di Stato. Questa attenuazione d'ogni suono, a volte, disturba il sonno invece di proteggerlo. Ancora ieri, i rumori incessanti, descrivendoci con continuità i movimenti in corso nella casa e per la via, finivano con l'assopirci come un libro noioso. Oggi, attraverso la superficie di silenzio distesa sopra il nostro sonno, un colpo più forte degli altri riesce a raggiungerci, lieve come un sospiro, senza il minimo rapporto con alcun altro suono, e perciò misterioso, e la richiesta di spiegazione che ne esala è sufficiente a svegliarci. Se, al contrario, si toglie per un attimo al malato il tampone sovrapposto al suo timpano, immediatamente la luce, il pieno sole del suono spunta di nuovo, accecante e rinasce nell'universo. Il popolo dei rumori esiliati fa rapidamente ritorno. Si assiste, come se le salmodiassero degli angeli musicanti, alla resurrezione delle voci. Le strade vuote si riempiono in un attimo delle ali veloci e incalzanti dei tramvai canterini. Nella sua stessa stanza, il malato crea all'istante, non come Prometeo il fuoco, ma il rumore del fuoco. E spessendo e alleggerendo i tamponi di ovatta, è come se premessimo alternativamente l'uno o l'altro dei due pedali aggiunti alla sonorità del mondo esterno.